ci hanno chiuso le porte del cielo, raccontandoci false verità. Hanno nascosto le chiavi per aprirci a più vaste realtà. Fantasmi di ogni età, è per questo che cerco il sole, è per questo che chiedo verità. Da questo gioco che di certo nostro è.